L'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, fowen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling. Buonasera a tutte e tutti, e stasera vi parleremo dei principali concetti dell'eco-veg femminismo, termine coniato dal collettivo Anguane, che è una corrente del femminismo animalista che si occupa della liberazione animale e di individuare le interconnessioni che legano l'oppressione animale all'oppressione delle donne. Donne e animali hanno molto in comune nella rappresentazione sessista e specista che di loro propone il patriarcato. In quanto per molte ecofemministe essi compongono tutto quell'immaginario legato all'alterità, all'altro, al non umano, di fatto subordinato e dipendente dall'umano. L'ecoveg femminismo offre una lettura articolata e completa degli strumenti di cui il patriarcato si serve per realizzare la subordinazione e lo sfruttamento delle altre da sé, fornendo delle risposte molto efficaci per combattere entrambi gli aspetti. Per porre fine dunque alla subordinazione, all'esercizio del potere e allo sfruttamento economico di donne, animali e tutte le categorie altre da sé. E per sé ovviamente si intende l'uomo. Brevemente e semplificando molto, quali sono gli strumenti di cui si avvale l'ideologia patriarcale? La separazione, l'oggettificazione, la strumentalizzazione del concetto di natura, la neutralizzazione. Tutti e quattro questi elementi, per funzionare, devono coesistere. Vediamo cosa stanno ad indicare. Gli uomini stabiliscono delle differenziazioni sulla base di elementi che ritengono rilevanti per sé. Per esempio, la differenza tra uomini e donne, o uomini e animali, non si potrà mai basare su un'osservazione oggettiva di elementi, poiché gli elementi osservati avranno sempre una rilevanza per chi li osserva. La separazione tra soggetti o elementi di uno stesso gruppo, donne e uomini, uomini e animali, bianchi e neri, ricchi e poveri, serve per stabilire delle gerarchie. La separazione tra donne e uomini, o uomini e animali, insomma, non ha alcuna valenza pratica o alcuna utilità, è una separazione strumentale. A seguito di questa separazione che si basa, abbiamo detto, su finalità proprie del soggetto osservante, maschio, segue l'oggettivazione del soggetto, o meglio oggetto, appunto, osservato. Le donne e gli animali, così inseriti all'interno di categorie, saranno dunque utilizzati per delle finalità. Sono quindi oggettificati, da un lato, come oggetto di studio e dall'altro per essere utilizzati come oggetti per una qualche finalità. Riproduttiva, sessuale, economica, sentimentale. La separazione e l'oggettificazione vengono posti in essere attraverso il concetto di natura. Sulla base di quali elementi gli uomini operano la separazione tra sé, le donne e gli animali? Utilizzando il concetto di natura, utilizzando l'ideologia della natura. La natura è, secondo questa visione, qualcosa che semplicemente si osserva, che si presta ad un'interpretazione oggettiva, che è così come la si vede, qualcosa di immanente. Dall'invenzione del concetto di natura derivano le divisioni tra mente e corpo, razionalità e istinto, maschio e femmina. Passiamo ora brevemente all'ultimo concetto, la neutralizzazione. Il processo di separazione, di oggettificazione, di naturalizzazione vengono resi neutri. Viene cioè nascosto l'elemento soggettivo del processo di dominio, il soggetto, maschio, di tale processo viene occultato. L'appartenenza biologica, tanto importante nella fase della separazione e nella naturalizzazione, tanto da essere determinanti nella separazione tra uomini donne e tra uomini animali, tanto da essere così ingenuamente osservati in natura, all'improvviso non ha più alcuna valenza. Chi osserva il maschio biologico si cela dietro la maschera del neutro, dell'asessuato, dell'oggettività, della neutralità, appunto. Il femminismo e l'ecofemminismo in realtà hanno saputo dare una lettura molto puntuale e dettagliata di tutto questo processo. Molte femministe hanno saputo spiegare in modo davvero efficace poi la connessione tra la condizione delle donne e quella degli animali. Per citarne solo alcune, Manisha Deka, Patrice Jones, Lisa Kemmerer, Greta Gard, Lori Gruen, Josephine Donovan e tante altre. Stasera noi vogliamo parlarvi di Marty Kill. Just trying to get the stains out. I wish I could be there to share the moon. Hey la la, I'm gonna love you till it hurts. I don't mind if I do. Till it works, I got no mind to lose. One trash heap burning, them fireflies are returning. Nightfall is softly chirping, one trailer light is staying on till dawn. I wonder who it's waiting on. I wish I could be there to share. If I do, hey la la, I'm gonna love you till it works. I got no mind to lose. Di seguito parleremo delle teorie di Marty Kill, ecovec femminista americana, attivista per la liberazione animale, accademica e ricercatrice in ambito ecofemminista, degli studi sia ricercatrice in ambito ecofemminista ma anche degli studi vegani e dell'etica ambientalista. È autrice del famoso testo Nature Ethics, an Ecofeminist Perspective, pubblicato nel 2008. Ha fondato il collettivo Feminist Animal Rights e la sua riflessione si basa sui principi teorici del femminismo radicale e dell'antispecismo, con particolare riguardo al ruolo che gioca l'empatia all'interno del movimento animalista da un'ottica femminista. I contenuti del testo che seguiranno sono stati presi dall'intervento di Marty Kill alla conferenza antispecista intitolata Cease Animal Torture, tenutasi nel 2010 alla California State University a Long Beach negli Stati Uniti. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear. And nerves jingle jangle, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes and I was no more a failure. You looked so wacky and wise. And I said, Lord, I'm happy because I'm just a walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. I don't care about your hate and your doubt. And I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go out by the pound and find yourself a hound and make that dog get proud. 'Cause that's what it's all about. Feminism and Animal Liberation, Making the Links, ovvero femminismo e liberazione animale operando il collegamento. Gli studi di Marty Kill si concentrano attorno a quel concetto molto sottovalutato nella nostra società e conosciuto col nome di empatia. Per Kill, in quanto vegane e vegani, non dobbiamo tanto cercare di convincere i carnivori delle nostre tesi, ricorrendo ad argomentazioni razionali sull'oppressione degli animali, quanto agire affinché le persone liberino la loro empatia. In genere tendiamo a svalutare l'empatia perché pensiamo che sia un parametro inadeguato a valutare le nostre le azioni altrui, e crediamo che alcune persone la possiedono, hanno l'empatia, altre invece no, e preferiamo invece parlare di diritti che riteniamo più razionali, più oggettivi. Ma noi possediamo un terreno mentale ed emotivo, sostiene Kill, che abbiamo bisogno di alimentare, e uno dei modi con cui lo alimentiamo è attraverso la rimozione delle sostanze tossiche in esso contenute, proprio come l'immagine tossica del mondo che abbiamo e di cui dobbiamo disfarci. Representation of patriarchal values. Meat eating is the reinscription of male power at every meal. The patriarchal gaze sees not the fragmented flesh of dead animals, but appetizing food. Vegetarian activities counter patriarchal consumption and challenge the consumption of death. Feminist vegetarian activity declares that an alternative worldview exists, one which celebrates life rather than consuming death. One which does not rely on resurrected animals, but empowered people. Viviamo in un mondo in cui le nostre emozioni sono state colonizzate dalla cultura specista, e quello che dobbiamo fare allora è decolonizzarle. Il lavoro di Marty Kill ruota attorno a questa decolonizzazione delle emozioni. Lei crede che l'ecofemminismo abbia molto da dire a proposito di questa decolonizzazione dell'immaginario dalla visione patriarcale. Quella visione patriarcale che ha colonizzato il nostro punto di vista coincide con la nostra natura profonda. Ci sono voluti molti anni per lei per avviare quel processo di riconnessione alle proprie emozioni, per prendere coscienza del fatto che si stesse cibando di cadaveri. Ad esempio, quando vedeva i corpi ammazzati di animali appesi nelle vetrine delle macellerie, e la cui vista cercava di evitare cambiando strada o voltando la testa da un'altra parte ogni volta che ci passava davanti. E la cosa, ha dichiarato, la scioccò a tal punto che decise subito di diventare vegetariana. Aveva 20 anni all'epoca. La scelta di diventare vegana, infine abbandonare quindi completamente i derivati animali, la prese dopo aver salvato dalla strada una gattina. In quel periodo entrò anche in contatto con un collettivo antispecista per la liberazione animale, e dopo quell'incontro fortuito iniziò a prendere coscienza di tutti gli abusi compiuti sugli animali di ogni specie, animali da reddito, animali in cattività. Iniziò a leggere il libro di Peter Singer, Animal Liberation, e di punto in bianco decise di diventare vegana, perché si rese conto che fin tanto che avrebbe avuto bisogno di mangiare prodotti animali avrebbe contribuito a perpetuare questa violenza contro gli animali. Successivamente, nel corso degli anni, ha sviluppato quel sistema teorico conosciuto col nome di Feminist Ethical Care o Ecofeminist Ethical Care. Le persone, afferma Kill, ritengono che non abbiamo bisogno di una responsabilità etica, ma di diritti etici. I diritti sono un concetto più forte della responsabilità e della cura, che vengono invece relegati al sentimentalismo, un campo di esperienza che viene attribuito tipicamente alle donne e di conseguenza svalutato. È ovvio che non possiamo forzare le persone ad essere responsabili o ad interessarsi a qualcosa, ma questo non vuol dire che non si possono fare cose che producano responsabilità. Allo stesso tempo, Kill ritiene che la nostra società sopravvaluti il potenziale dei cosiddetti diritti. Le donne, ad esempio, hanno il diritto di non essere stuprate, ma questo non deve sostituire il concetto stesso secondo cui le donne non devono essere stuprate. Per cui identificare i paradigmi olistici del pensiero, cioè identificare le cause del perché non dobbiamo o dobbiamo fare qualcosa per altre creature viventi, rappresenta per lei un punto di partenza più adeguato per creare un terreno fertile attraverso il quale possiamo far fiorire l'empatia nelle persone. Kill crede fermamente che per smascherare il patriarcato non bisogna sottolinearne i sintomi, ma piuttosto sviscerarne le cause più profonde. L'identità maschile è uno degli elementi che deve essere smascherato in tutto ciò e che influenza la nostra visione in relazione agli animali, oltre che alla discriminazione sulle donne. E l'ecofemminismo ha molto da dire in proposito, e soprattutto a proposito di come l'identità maschile sia connessa alla visione patriarcale del mondo, di come si manifesti nelle religioni e nei sistemi filosofici, in tutto ciò che permea la nostra cultura. Dunque, che cos'è l'ecofemminismo? È un termine che è stato coniato nel 1974 da una donna francese, Françoise Dauban, sebbene sembri essere apparso separatamente in una serie di avvenimenti in diversi periodi della storia. Parte dal presupposto che la svalutazione della natura e la svalutazione delle donne siano andate di pari passo con lo sviluppo della società patriarcale. Da un punto di vista ecofemminista, questo significa che la svalutazione delle donne ha alimentato e contribuito alla svalutazione del mondo naturale e viceversa. Ovviamente ci sono ecofemministe con percorsi e idee diverse, ma è interessante individuare il legame che le unisce e l'origine da cui trae spunto, proviene, diciamo, questo movimento. Molte ecofemministe individuano nel dualismo il fondamento dell'ottica patriarcale. Per dualismo intendiamo le coppie di opposti che permeano il nostro pensiero occidentale: conscio inconscio, razionale irrazionale, autonomo dipendente, sacro profano e infine maschio e femmina. Ovviamente tutte le caratteristiche associate al maschile vengono considerate superiori, mentre quelle associate al femminile vengono considerate inferiori. Inoltre, la parte inferiore, quindi quella femminile, secondo quest'ottica, è considerata subordinata, non solo, ma anche sottomessa alla necessità della parte superiore. Allo stesso tempo c'è l'idea che il sacro trascenda il mondo e che non sia parte della terra, della materia, un mondo che deriva le sue origini e affonda le sue radici in realtà da un principio materno, per cui nella religione, ma in generale nei sistemi filosofici, esiste un Dio padre che domina la terra madre. Nella tradizione giudaico-cristiana questo Dio che domina il mondo è personificato in un essere maschile che ha creato l'uomo maschio a sua immagine e somiglianza. Dunque è questo tipo di mentalità che viene riprodotta in qualsiasi ambito per quanto riguarda i rapporti sociali tra uomini e donne, rispetto alla natura e di come ci rapportiamo agli individui che consideriamo inferiori. Fresh, yeah. Kiss my friends like I pick my fruit. And yeah, they told me that when I was older than you. Talk around trying to be what I'm not. I don't listen, I'm not trying to run up with me because I can't please you. And that's why I do it to my soul. back, alright? Way back. Y'all wanna go back with me? Il concetto del care o preoccupazione, interesse, responsabilità sviluppato dalle ecofemministe contrasta con quello della cura che è stato derivato dalla società patriarcale. Ovviamente questo rapporto di essere superiore e inferiore viene riprodotto nella visione antropocentrica che abbiamo del mondo con gli umani, in particolare gli uomini in cima alla piramide. Non sono solo le donne a essere considerate vicine al mondo naturale e inferiori, ma anche una serie di esseri viventi vengono considerati emarginati perché non sono pienamente umani, e non solo, anche le persone di colore, gli anziani, tutta una serie di persone confinate in questa sfera della materia, che sono quindi considerati più selvaggi, più vicini al mondo naturale, quindi agli animali. Ci sono due immagini, secondo Kill, che aiutano a capire come questo dualismo si manifesti nella nostra società patriarcale, e sono quelli della bestia e quella del corpo. Nella loro accezione di bestie, le donne e gli altri animali non umani sono considerati degli esseri inferiori da conquistare e sottomettere da un eroe aggressivo virile. Esempi di questo tipo sono presenti nella letteratura: gli eroi che si battono contro i draghi, che diventano la strega indebolita, quel grande mondo cattivo delle favole. E poi c'è una nuova riattuazione di questa forma di intrattenimento, come ad esempio la caccia al bufalo o a qualsiasi altro animale, come anche la pornografia e lo stupro. In passato Kill ha paragonato le immagini di donne legate e incatenate nella pornografia a quella degli animali legati e incatenati nei rodeos, da cui si può evincere l'esistenza di una mentalità simile. La storia di Adamo ed Eva è un esempio di come questo istinto venga messo a tacere. Eva decide innanzitutto di seguire i consigli del serpente e disobbedire a Dio, condannando così l'umanità alla vita mortale. Da qui l'idea che le donne non riescono a controllare le loro passioni, non sono come gli uomini dotati di razionalità e che sono al contrario in grado di dominarle. Considerare le donne come esseri inferiori è un concetto che si origina dallo stigma che riceve Eva dopo aver osservato i consigli del serpente. Questo concetto ha portato a discriminare le donne in base a certe presunte qualità e avvantaggiare gli uomini che ne avrebbero altre opposte a quelle femminili. Il lavoro di Marty Kill punta a questo recupero dell'integrità degli esseri viventi, a ricomporre quello smembramento culturale e fisico operato su di essi dalle culture patriarcali. Quindi, nella seconda immagine, quella del corpo, le donne e altri esseri non umani sono concepiti in quanto materia animale che esiste per servire il sé maschile superiore. Secondo questa concezione non c'è bisogno di conquistare questo essere altro, perché è da sempre concepito come qualcosa di diverso, per cui la separazione in tal caso è già stata ottenuta. Loro esistono da sempre per servire i bisogni altrui. In questo caso la violenza è già stata attuata mediante questa divisione concettuale, e ne vediamo esempi ad esempio nell'industria alimentare, nei laboratori di sperimentazione animale, in tutti quegli ambiti in cui i corpi degli animali esistono soltanto per servire le necessità umane. Lo stesso si può dire del corpo delle donne impiegato nella riproduzione della prole o nel matrimonio, in cui il corpo della donna è il valore maggiore che la donna stessa dona al marito e la sua di capacità di mettere al mondo i figli. Molte donne vengono considerate inadeguate se non portano a termine questo loro compito. Poi c'è il concetto di donna in quanto proprietà nelle cerimonie maschili. Nel matrimonio è il padre che conferisce la figlia al nuovo dominatore, al futuro marito. Tuttavia la nozione che collega questi due concetti, quello di bestia e quello di corpo, è indubbiamente, secondo Kill, quella di donna in quanto altro.

Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Violentadas, violentadores. No somos iguales. Penetradas, penetradores. No somos iguales. Las señoras, los señores. No somos iguales. La validez y los colores. Diversidad. Diversidad. No, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida. Aléjate del peligro de la esquina. No, no, no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. Victoria. Il movimento animalista è composto da migliaia di persone, donne e uomini, che continuamente si devono confrontare con questo sistema di dominio. E capita che le donne subiscano violenza all'interno del movimento animalista da parte degli uomini. È triste constatarlo, dice Kill, ma è una realtà ed è importante che tutte le persone che hanno a cuore la vita e il benessere degli animali affermino a gran voce che questo non è accettabile. Bisogna sradicare la violenza in qualunque forma si manifesti e creare, laddove necessario, uno spazio per le donne in cui queste possano parlare della violenza subita all'interno del movimento ed estromettere quegli uomini che l'hanno esercitata. Perché non si può promuovere un movimento a spese di un altro, sostiene Kill. L'oggettificazione è uguale in qualunque forma si manifesti. La carne e il sangue in generale, come evidenzia l'importantissimo lavoro di Carol Adams, simbolizzano essenzialmente il dominio, la conquista del femminile. Le connessioni tra carnismo e identità maschile sono svariate. Basta considerare le origini storiche del carnismo. La carne si collega al sacrificio degli animali, che rende la connessione con la maschilità ancora più evidente. In molte culture c'è un legame tra la maschilità e gli animali. In alcuni paesi i giovani uomini vengono esortati alla caccia o in qualche attività con gli animali. È indicativo che prima o dopo l'esperienza della caccia i ragazzi vengano dissociati dalle ragazze e si crei questo distanziamento. Il sacrificio degli animali è peraltro associato alla maschilità. Il sacrificio in origine era un rimedio alla nascita delle bambine. Mediante la privazione della vita, gli uomini condividono un'eredità intergenerazionale che dimostra la loro superiorità nei confronti della natura. Teoricamente tutti i sacrifici vengono eseguiti dagli uomini. Se ad esempio un bambino deve dimostrare di essere un uomo, deve uscire all'aperto, cacciare e uccidere un animale e, molto significativamente, nelle società in cui questo comportamento viene considerato la norma, anche le femmine vengono considerate altro prima di essere cacciate. Per cui è questa dissociazione dalle donne e dagli animali che diventa caratteristica intrinseca del mondo degli uomini. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Oggi la maggior parte della carne proviene dagli allevamenti intensivi. Il concetto di base odierno è che le fattorie industriali esistono solo affinché la gente compri e mangi la carne di altri esseri viventi. Non si parla molto in termini di zootecnica, ma la parola in sé racchiude tutto un concetto di proprietà. L'allevamento industriale si basa di fatto sul controllo riproduttivo. Pensiamo ad esempio all'allevamento degli animali da reddito. C'è quest'idea secondo cui gli uomini che gestiscono queste fattorie, questi agrobusiness, si considerano e vengono considerati dei capofamiglia nel senso tradizionale del termine, le figure principali della famiglia, in cui l'apporto delle donne al reddito familiare è secondario. Il loro compito è quello di controllare le capacità riproduttive degli animali della fattoria, ed è proprio questa l'essenza dell'allevamento industriale e di qualsiasi altro tipo di allevamento, quella cioè di controllare le capacità riproduttive degli animali e di sfruttarle a scopo di profitto. Attualmente il 66% delle mucche negli Stati Uniti viene sottoposto all'inseminazione artificiale. Il 100% dei tacchini vengono talmente sovralimentati da non potersi muovere, sono fisicamente impossibilitati. Le femministe hanno scritto e parlato molto degli abusi sulle donne, ma se mangi animali stai di fatto contribuendo ad alimentare la cultura dello stupro. Quando i vitellini vengono allontanati dalla madre per non succhiarne il latte, succede che piangono per giorni e giorni. Quello che facciamo è, di fatto, privare il vitellino del latte di sua madre e prenderlo per noi. Per cui beviamo un latte che è indicato per un vitellino di 8-9 kg, non per un essere umano. E questo latte non è molto salutare per noi. In molti casi produce malattie, incluso il cancro al seno delle donne. Anche nel caso dei prodotti animali biologici, le condizioni di sfruttamento, maltrattamento e sovraffollamento nelle gabbie non cambiano, sono sempre le stesse. Al pari dell'eterosessualità normativa, la carne è una norma istituzionalizzata che viene imposta e pubblicizzata e mantenuta con la forza con l'obiettivo di assicurare alla società l'accesso agli animali e alla loro carne. Nella popolazione sono diffuse le stesse credenze secondo cui è ovvio che tutti dobbiamo essere dei carnivori e se sei vegano devi giustificare la tua scelta. Per cui, allo stesso modo in cui nessuno ci chiede come sei diventato eterosessuale, nessuno ci chiederà mai perché sei carnivoro. Per cui dobbiamo cambiare questa postura difensiva e ribaltare la domanda. Non tanto giustificare la nostra posizione da vegani, ma chiedere agli altri che non lo sono, perché non lo sono. La stessa credenza porta al presupposto che se sei vegano sei incompleto, e così se sei lesbica non sei completa, non riesci a raggiungere la soddisfazione sessuale senza un uomo. E allo stesso modo in cui chiedono ai vegani ma cosa mangi, si chiede alle lesbiche ma cos'è che fai? E allora, così come esiste l'omofobia, ora esiste anche la veganofobia. E allo stesso modo gli uomini vegetariani o vegani sono considerati più femminili e si possono vedere qui le connessioni tra dominio della carne e dominio maschile. Diventare vegani, conclude Marty Kill, è un modo per smantellare l'oppressione e opporre resistenza attiva. Is in town, and there you are. The clamp is. coming down. Everybody knows protesters and those folks who don't have a life. See the scientists seeking differences, have to suffer such strife. I don't wanna know if you're having fun or your medicines are on sale. I don't wanna know if you got a gun or a new step son or you think you're gonna bail. Wear your eyes, pacify, ride a little, lose the line. Compromise a little time to make the world freer. Close the lab, don't you laugh, do the math, face the fact that barbarism kills the cat, Columbia's bleeding. Wear your eyes, pacify, ride a little, lose the line. Sacrifice a little time to make the world freer. Close the lab, don't you laugh, do the math, face the fact that while you're sitting in lit class, Columbia's bleeding. This is the Ivy League. La nostra trasmissione oggi finisce qui, ora vi salutiamo, vi ricordiamo che per qualsiasi informazione, commento, approfondimento sulle trasmissioni passate o sui contenuti di questa trasmissione potete scriverci o contattarci all'indirizzo di posta connettive @gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che qualora voleste approfondire i temi trattati in questa sede o qualunque altro tema relativo al femminismo e all'antispecismo, potete consultare il sito della rivista Musi e Muse, teorie e pratiche tra genere e specie, all'indirizzo www.musiemuse.wordpress.com e il sito del collettivo anarco-eco-veg femminista Anguane all'indirizzo www.anguane.noblogs.com. Vi ringraziamo per essere state e stati con noi e alla prossima puntata. I listen to some rap. I give myself a slap. Come on. Use the pain, drink up from the rain. Just arise, supervised, healthy, wealthy, and all wise. Dance around, make a sound, let yourself become unwound. God, I'm so German, have to have a plan. Please, Ethel Merman, help me out this jam. Phil, ready for my pill. Flex my psychic muscle. Guess we better hustle. People are dying now. Do something, you ugly cow. Sorry for myself again. Meet my wallet in my bin. Jesus, I love you. Frank, I love you too. Hit the road together. Get out of the zoo. No exit, just a pit. Apocalyptic and a zip. If I change the world at all, what does it matter if I change the world at all?